altri, tu e due. Oh, ciao Mario, buongiorno, io a te. Hai capito, ogni tanto non mi faccio sentire anche io, perché mi sono alzato presto, come ogni giorno, anche se è domenica. E lo gira gira e poi sono venuto qui perché notte ho fatto un po' le ore piccole, eravamo in giro, eravamo e niente, con mio figlio e quindi non si è abbagliato nessuno come sta facendo Gio Maria e poi se non avevo la Formula 1 io l'ho guardato, ho preso poi lo spezzo perché non mi dà tutti in muta mi fa. Oggi mi sento tutto quanto strano, sto preparando che dobbiamo a una certa ora, mio figlio deve suonare, perché stanno organizzando una passeggiata ecologica qui in giro, c'è un sacco di gente, poi dopo si pranzano al sacco e poi attacchiamo 2000 watt di potenza e facciamo vedere questa fisarmonichetta come si suona. E addirittura con 2000 watt, e cosa ne fai? E ma lui suona così, quando piazza fuori, e li attacca tutto. Ah, K-K. K di positivo, no, io ho detto loro, ok, va. Con 50 watt se mette i pulsi dentro casa. E no, ma fuori, se per sentire lui, le trova il pelo di nuovo, tutto particolare, mio figlio, è proprio... Hai capito, vuole la qualità, più potenza c'ha, più qualità esce. Gatta di positivo. Sì. Oggi ho detto, sono tutti addormentati, non si è sentito nessuno. No, molti sono guardandosi la Formula 1. Alla solita ora stavo passeggiando e capito un po' dentro casa, un po' di mal di testa e noi stavamo chiacchierando fuori e c'era, non credo il sereno stava iniziando a scendere e quindi capito, se non ti copri con qualche berretto c'è un po' di mal di testa. K-K. Già andrà bene, no, oggi sembra una bella giornata, appena appena di venticello e io mi stavo dando da fare perché mi sto organizzando la vecchiata per chiudermi il terrazzo e così che niente, dai, adesso devo continuare, ma oggi è domenica, non è che mi è giunta il programma, Sì, la domenica è fatta bene. Per riposare diciamo, ma io l'altra domenica mi ho finito di piazzare la mantova, che è finito, già l'ha piazzata la sabato stesso, e stavo facendo dei ritocchini e niente, ma ok, però oggi proprio, cioè questa roba a piazzare gli servizi e ci divertiamo, adesso vediamo perché il piazza c'è l'appuntamento, chiusa con i niente, vediamo a vedere chi tutto c'è. Mi ha chiamato la 50 a pigliare la caffeina, ma io per il momento ti saluto, rimango in quei ricchi, non è che sto chiudendo, e poi nel caso mi riprendo, dai, quei ricchi rimanimi, no. Vai, con la caffeina. Sì, ma come ti arrivo comunque a Gatteria, e arriva bene adesso? E va bene, si sente ancora per Radio 5. Ok, perfetto, ma perché l'ha sparato questo apparecchietto? L'abbiamo sparato e sembra che vada bene, piccolino piccolino, non piglia posto, a me mi va benissimo, quindi ok, teniamo il tutto così. Mi assento, ma vado a concentrarmi la 50, altrimenti poi mi prendo il caffè e non mi piace. Gappa, fai come che poi c'è casa tua, già. Sì, dai, vado. Bello questo fischio, un Carnellino oggi, buongiorno. Ma quale Carnellino? Mi sembra quasi un usignolo. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno a te Mario e buona domenica. Pertanto a te e al PRA. Tu Cingerella? Qui dalla PM Mario, sia la signora che la bimba, grazie. Via. Vabbè, tu Cingerella, vero? E cazza Mario, portando giù la bambina a respirare un pochino d'aria di mare, chiuso alla rotonda e con quella scusa ci guardiamo anche due pancarelle. Appagata, anda bene bella. Ma c'è ancora il Gran Premio, vero Mario? Ma... E beh, come stiamo andando? A lei. Aia, non dirmi che abbiamo fatto l'entrata del leone, mi, e riuscita di rumattoni, femmo. Ciao Giuseppe! Buongiorno Gianni Capridue da Muros, buongiorno, ben sentito e buona domenica. Io sono qui alle luci gialle di Sassari 2 in questo momento, Gianni, buongiorno. Ok Giuseppe, ascolto, diciamo, come si movimento a tratti. Comunque buongiorno anche a te, al tuo PRA e a tutte le persone che hai a bordo, la Capridue. Vi auguro anche a voi una buona domenica, già quello che è bella, che noi stiamo preparando perché c'è la passeggiata ecologica e poi sto preparando perché mio figlio suonerà all'aperto oggi, stiamo preparando il servizi, e ok, cosa volevo dire Giuseppe, dove ti trovi interrogativo? Allora, in questo momento Gianni sto invocando la Goody Goody, sono proprio dietro alla latte dolce. Sì, perfetto, su, ti ho copiato la radio, mi ero sentato che la 50 mi aveva chiamato a prendere il caffè. Ok, mi sembra che mi sta passando anche il mal di testa, riprendi va. Gappa gappa, va bene, cosa ci vuoi fare? Ma per il mal di testa c'è la soluzione lì. Non è sopra di mal di testa spesso, però guarda, leggero leggero di quei coli fatti di oggi, adesso ho preso il caffè, sembra che mi sia passato, non sono tanto, diciamo, d'accordo a prendere farmaci anche, ma se mi vuoi passare mi passi, già non esisto, mi sta calmando, è forse proprio preso umido. Ok Giuseppe, ti rimetto il cambio, vai. Cappa Gianni, cappa, vai, questo mal di testa non è che è fatto da Monello ieri notte. Oh, eravamo una rassegna, eravamo di palli di sardi, ero con degli organettisti nelle zone di Nuoro, e stavo aspettando che il mio amico Paraghini di Porto Torres, che la moglie appassionata, invece, lui non è venuta, non stava poco bene la moglie, però mi sono intrattenuto lo stesso perché mio figlio conosceva degli organettisti, dei fisarmonicisti di quelle zone, e ho bevuto un paio di bicchieri di vino che hanno portato da lì, però non è quello Giuseno, è proprio come si chiama, che prima di entrare dentro questa palestra di quelle, hai capito, che è fatta con i teloni, è enorme, no? Eravamo fuori chiacchierando e forse, hai capito, un po' di umido, perché siamo trattenuti fino a una certa ora tarda e niente, ma Moreno non ne ho fatto Giuseppe, perché ci avevamo anche la macchina, c'era un vicino, però, hai capito, non si sa mai, riprendi Mario. Gappa gappa, no, ma è solamente per quello, un po' di umidità, un po' di collo, siccome ieri sera mi ha fatto anche abbastanza caldo, ieri avevamo 22 gradi, mi, non era poco, no, e niente, poi magari la sera scende l'umidità e a volte ti frega così, tutto lì, e allora, mi stanno buttando giù. Tutto a posto, sì. Cassa di positivo, tutto a posto Mario. Qui sempre forte e chiaro, forte e chiaro Mario. E ho abbassato anche la pubblicazione un poco perché qualcuno da vicino mi dice che non mi ascolta bene. E vabbè, bene adesso, come modulazione perfetta Mario, qui sei bello, comprensibile, chiaro, una bellissima radio. Tu già lo sai che io ce l'ho sempre una bella radio. Positivo Mario. E a cosa chiedomi? A ti piacciono Mario le versioni AU qua sulla Bundivuti? E quella è tutta gente che vuole pigliarti è arrestata subito. Perché l'altro giorno per una cosa del genere quello là si può essere ammazzato che c'è sceso nel burrone. Sì, già l'ho sentito Mario, quello che ha trovato doppio rum e coso, è natalino. Questo. Ma quanta gente c'è che non sa guidare? Non è che non sa guidare, fanno gli istruttori, fanno finta di non conoscere la segnaletica. Ecco perché io dico che a quella gente lì bisogna mettere subito il muro, perché poi non si ammazzano loro, ammazzano gli altri. Positivo Mario, perché in genere funziona così e sono proprio quelli che li provocano gli incidenti a non farsi niente, chi non ne ha colpa è sempre quello che ne esce peggio. Per il positivo, alleluia, ma cosa ci vogliamo fare purtroppo? Piano piano dai, tanto non possiamo fare altro, avanti Gianni Capri 2. Ok, Giuseppe, ci sono queste persone perché me ne capitano ogni volta che io muovo macchina che ci sono e ci devono essere, non c'è niente da fare, però poi quando succedono le cose sono tutti meschini e sono qui, non è così. Lì bisogna, quando succede, pigliare la patente e non dargliela più, non che mi rifaccio fare il grave. Tu hai provocato un incidente perché hai fatto una manovra che sapevi che non si doveva fare e la patente non ce la vedi più. Perché in certi coi non è strana quella lì da fare inversione a una, poi, assolutamente. Ed è anche una strada che credo che sia trafficata sempre. Riprendi Mario. Ma io non sono sicuro di vederla finita quella strada della Bugimugi, però sono sicuro che quando finiranno quella strada della Bugimugi leggeremo ogni giorno molti su quella strada, perché già camminano così e fanno gli stronzi così che la strada è stretta. Figuriamoci quando la strada la finiscono di allargare che l'aprono al traffico. Quanti morti leggeremo in quella strada lì? Anche tutti gli altri camminano in macchia da voi. A me la voce ho camminato e facendo attenzione. E invece camminano e magari stanno facendo altre cose che non dico, perché Giuseppe c'è il bambino in macchina. Però guarda, ne vedi di tutti i colori, chi è col telefonino, chi è, per carità, lasciamo perdere. Capo, io sono d'accordo con te Mario, perfettamente d'accordo con te. Già noi gente avanti che siamo a una corsia per marcia, sembra che abbia il demonio dietro che li sta inseguendo. Figurati tu adesso quando la fanno a quattro corsie, oh, ne vedremo delle belle qui. Ma per me voleva allargata, intanto è sufficiente di poter camminare bene con la macchina, che quando si incrociano due in pullman, quasi si raschiavano uno con l'altro. L'avrei allargata di un mezzo metro per corsia e l'avrei lasciata così, perché poi adesso siamo in inverno e uno dovrebbe fare quella strada, diciamo, a uso passeggiata. Ma aspetta che viene l'estate, che ui, e tutti quanti hanno il fuoco al culo, non si vedono che al mare. Tanto non al mare non si vedono che a Sassari. Ma quando mai esce, ma di bisicci, e da te pare il perseguito dai carabinieri. Infatti Mario. Guarda, io per fortuna, d'estate, a me già non mi fuggi di romanzano. Io quando sono in ferie, 8 meno un quarto, poi già mettendo l'ombrellone in spiaggia. E cappa, perché di solito uno che ha intenzioni di farsi anche una giornata al mare, parte anche mezz'ora prima, e se la piglia con tranquillità, c'hai la famiglia, c'hai i tuoi figli, c'hai la tua moglie. moglie, magari c'è la tua madre che è già vecchia, diciamo anziana. Allora che buona curia fa, ma cosa glielo ho detto, tagliata che si ha preso, non ha giù un peso. Io la mattina quando vado al lavoro, alle 7:30, entro alle 8, però parto da casa alle 7:30, 7:20, e me la piglio con tutta tranquillità e tu le vedi, caro, che escono correndo da una parte e dall'altra. Ma che la fine mese sei come venuti prima, ma non ho bisogno di avere tutta la canta che si ha presa. Ma lui lo sa che lo sa anche perché non è stato a casa, ma perché già inizia la stagione, adesso lui sono nelle piazze, anche per provarsi tutto quanto l'impianto, se funziona puntino, no? Adesso ci ha fatto l'altro costruendole un'altra fisarmonica, questa ce l'avevamo 2 anni, ce l'hanno valutata, altri 4.000 euro bisogna aggiungere, perché ne sta facendo una ancora più speciale. Si è lavorato, ho aspettato 2 mesi al comune, e più su delle serate, e sta facendo quest'altra fisarmonica che è un incanto, perché l'aveva vista in ditta come prototipo e quella non gliela dato, la stanno costruendo precisa e penso che a giugno ce la consegnino, e quindi lui è sempre, le piace perché quello lì è il suo mestiere, Mario. Cappa cappa, andrà bene. Adesso quasi quasi inizio a attaccarmi ai forellini a prepararmi qualche cosetta. Ho l'ante pochetto, un po' quelle parti asciutta. Comunque io le avevo l'altro giorno da mamma, non sono mangione di carne, ma non sono un tanto mangione di carne, preferisco più il pesce, infatti l'altro giorno ho fatto una buona spesa, ho fatto di pesce perché diciamo è più roba, più digeribile per me, ma anche la carne, mamma mi ha cucinato perché era la 50, che era il suo paese, e ero un pochino di lì, invitato a pranzo e a cena, mi ha cucinato proprio il porcetto, hai capito, però diciamo che non mi attuffo di carne, ma... Cappa cappa, ma è un pezzo, tanto per tirare avanti, dai, il giovane deve cucinare da chissà che cosa, no? E tanto rimane come un parto normale, senza buffare, se infatti io mi piglio un pezzo, lo metto nel forno, e niente, poi mi preparo un po' di pasta, un po' di insalata. Tutti i giorni, non è che mangio solo la domenica, solo che la domenica mi rilascio e mangio un poco più sereno. Tutto lì perché durante la settimana arrivi dal lavoro, poi devi andare, la sera quando esci sei stanco e molte volte non hai voglia, e così che niente, dai. In settimana si lascia il tempo che si trova, ma almeno la domenica a mangiare un po' benino. E infatti, no, io la sera, non è che sto eliminando i pasti serali, ma sto facendo qualche semplice, così roba, hai capito, poca roba, in modo che dorma tranquillo, no? Perché ho una digestione molto lenta, e quindi, però a pranzo si fa il pasto normale, però la notte adesso sto iniziando già, anche per eliminare qualche chilo di troppo, che ho un chilo, c'ho chili di troppo, hai capito, mi sento, hai capito, molto appesantito, come, perché quando lavoravo tanti anni fa in impresa mi sentivo un leone scattante, pronto, vabbè che sono passati quasi 20 anni, però, ma niente, bisogna essere, capito, col peso forma. Cappa cappa, è solo che la vecchiaia mantenere il peso forma non è che sia tanto facile, no? Mio padre ha 77 anni, devi vedere che fisico che c'ha, lo sai le camminate che si fa mio padre, tu non hai un'idea, e hanno fatto quell'intervento come l'hanno fatto a Semi, ma quell'intervento giusto, però tranquillo, ogni tanto va a fare queste analisi, tranquillo, però devi vedere che fisico che c'ha papà, vabbè che lui ha lavorato sempre alle ferrovie dell'Ottanto e hai capito, ci è mantenuto sempre in forma, è la pure campagna, hai capito, e per l'età che già lo vedo giovane io ancora. Cappa, perché deve essere così, non deve essere diversa la cosa, solo che vedi, lui era alle ferrovie dello Stato, magari era tranquillo, lo stipendio viene sempre, non ci aveva problemi di questo mese guadagna abbastanza, l'altro mese non guadagno, e quando si è al posto fisso nella vita uno si fa tanto purtroppo sono fatti 2 a 0 quando sono sposato e capito, ma anzi doveva pigliare più pensione, molto molto di più, perché i primi anni non sono contatti riconosciuti, non so per cosa. Comunque ci ha lavorato una quarantina d'anni, Papole, era giovane giovane quando è entrato, e più mamma è pensionata, la pensione dei commercianti, perché ci aveva il negozio alimentare, prima era di nonna, poi era passato a mamma, e così, e già stanno bene, ma si è fatto una bella casa, Papole, che questa me l'ha data a me, che va comprato, non c'è fa nulla, Papole. Ha comprato questa, poi ce ne ha fatto un'altra, ne ha comprato anche il terreno lì a Bollana, dove c'è il settore di Giulippo, c'era la figlia, qua ci sta lavorando lui, e così si era tolto anche il garage, ma, diciamo che lui sta bene con mamma, perché diciamo che per quello che guadagna lui e mamma, capito, vanno alla grande, dice mio figlio, il grande, che c'ha lui da piccolino, perché c'ha il suo nome, e ne compra tutto quello che vuole, capito, ma quindi tira a gamba. Gamba, se lui già è bella la vita, cioè, bella la vita è sempre bella, diciamo che uno ha meno preoccupazioni e vive più sereno, mentre che quando è come tanti, diciamo che hanno la preoccupazione che finisce il cantiere e si è disoccupato, se non si mette subito l'altro si è a spasso, e così che è così per tante cose, capito? È sempre deve stare sempre sul che vive, perché purtroppo è così, è niente, mentre che quello che ha il posto fisso è tranquillo, ne mese, o che lavori molto, o che lavori poco, o che c'è il giorno che è più strapazzato di un altro, da loro si vede un buon esempio, hanno un anno, e mentre che quando si nell'impresa guaio, capito? E così ci sono anche tutti i dolori, tutti gli acciacchi e così via. Io però potevo essere stato ferroviere, capito, per la domanda forte, però e lì facevano dei cosi, degli orari, poi secondo come fai, capito, che venivano tanto male le persone piaggiante, a me diciamo, mi piace a farmi le ore mie, a stare in libertà, me ne sono uscito anche dai carabinieri, io vai, dei carabinieri, proprio per la libertà, perché mi piace stare libero, sono un avventuriero, capito, e mi piace a godermela la vita, ma e quindi ero stato in pensione io, sono stato in pensione da parecchi anni, sono stato nell'Arma Nuova, ma però come stai dicendo tu, la vita è bella, ma anche con niente, con poca roba, anche diciamo vissuta con pochi soldi, io la vedo così, tanto quando moriamo lasciamo tutto qui. Beh, quello sì, ma io non sto dicendo per quello, io sto dicendo per avere i tuoi spazi da stare con i tuoi figli, per andare in giro, o per non fargli mancare niente e così via. Tanto noi i sacrifici mica li facciamo per noi, li facciamo per loro. Infatti no, il grande d'estate quando fa le serate, il minimo che guadagna a serata sono 400 euro in 2 ore e mezza, fa le 3 ore da Ricchierrappa, e anche un pistolizzano l'anno scorso 600 euro, ma 600 euro si è messo in tasca, e lui già, capito, quando esce d'estate si fa già un bel gruzzoletto, no, che subito li fa fuori comprando strumenti fisarmonici, strumentazione, perché dopo osservate che siamo a periodi brutti, a periodi brutti, e niente, diciamo che già ci campiamo, no? Lui gli piacciono anche le macchine sportive, c'è la Alfa 156, hai capito? Beh, più qualche cosa, anche c'è la Corolla Minima, due macchine ci sono, perché Babbo non lavora quasi mai, e l'ha comprata nuova proprio per molte volte per non uscire con l'Alfa, che consuma troppo, non lo usavo, preferiva l'Alfa di Paglia. E ho credi anche da fare un caso, e niente, adesso c'è tutte queste patenti, sono contento, c'è quella del camion, si è preso poi quella del quella del Tirvi, quella del Pullman, tutte ce le ha, quelle di tutti i tipi di moto, hai capito, lui è capito intelligente, arriva, anche io non ce li ho tutte, però lui diciamo è più intelligente di me. Intelligente di te. Io ho visto che anche tu l'hai fatto e non sei aspettato a dirtelo nessuno. No, io la patente del camion non ce l'ho perché io ho gli occhiali da piccolo e quando mi volevo pigliare la patente per l'articolato mi hanno detto di no perché avevo gli occhiali. Sì, gli occhiali ce li ho, ma molte volte che ne volevi dire qualche roba che c'era scritto una piccola, ce li ho per lettura, anche lui ce li ha perché lui legge dei partiti musicali, si dimette gli occhiali e niente, però grazie a Dio ancora per l'età che ho non ne ho bisogno, ma io oltre quella, poi delle patenti ho licenza nazionale di autotrasporto passeggeri e internazionale, hai capito, posso aprire agenti in viaggi, posso avere i contributi per comprare il pullman, tutto quello che vuole, solo ma che c'è crisi, mi stavo aspettando ieri l'amico mio di Porto Torres, però non è venuto perché anche la moglie non stava bene, perché è un'appassionata di roba tardi, invece da tempo che non poteva venire per via, però noi siamo sempre in contatto, perché poi stavo guardando su internet un paio di pullman a buon prezzo, e volevo fare qualcosa, visto che la regione mi potrebbe dare una linea, adesso vediamo un po', è una cosa che qui la sto dicendo e qui la sto negando, ma perché lì è tutto da valutare, capito? A volte si comprano i mezzi e poi rimangono fermi e niente, perché io non posso fare che ci vuole licenze, però era una cosa che volevo vedere anche a un'altra persona e valutare se si poteva fare o meno. Tutto si può fare e tutto non si può fare, perché con queste linee, vedi, magari se da un paese all'altro potrebbe andare anche bene, ma grandi tratte, come aveva iniziato per dire il pane che si faceva Sassa di Cagliari, Sassa di Nuoro, quelle lì non si possono più fare. Uno, perché non ci sono tanti viaggiatori, perché oggi tutti quanti, bene o male, hanno la macchina. Ed è una cosa, un critica, perché io vedo che c'è Fara, e la fortuna sua è che c'ha l'abbonamento di tutti quanti quelli di Proaghi, per dire gli studenti che vengono a Sassa gli pigliano il pullman, ma se no non è che sia un grande affare, quello di avere il pullman, davvero, perché non è che sì, poi c'è qualche gita, c'è qualche cosa, ma non è che ci sia tutto quanto questo grande affare. Come si chiama, ma quando c'è la linea il pullman se si viaggia a Roma è pagato, stiamo parlando di linee regionali, capito, e poi in più c'è come si chiama dei passeggeri, c'è il cugino di mia moglie, lui faceva lo stesso lavoro che faccio io, ha fatto di scuola a posto, poi ha comprato 9 posti, poi da linea ha comprato un pullman, ha detto che ha 5 pullman grandi, altri 2 pullman da autoroleto e una macchina taxi, ed è andata bene, è stato volato, quindi è stato molto bene, però diciamo che sono mosche bianche, ma perché se mi può andare anche male, capito, un lavoro, però se ingrani bene dalla prima, io sono convinto che la ruota gira bene. Quello sì, io non sto dicendo quello, stavo solamente dicendo, come dici tu, un'avventura, cioè ti può andare male, oppure ti può andare alla grande, e poi magari quel pulmone non ti basta più, magari ce ne vogliono altre 2, però sto dicendo che è tutto un rischio, è tutta un'avventura, quando uno inizia così, cioè di sicuro non hai niente, non è che dici, faccio questo, alla fine dell'anno, ma di no, ma io con linea regionale so che ogni mese guadagna tot, guadagna più di 4.000 euro, anche se mi ha già vuoto, e così, e nei mesi ce ne vogliono 2, anche per la soffine se si guarderebbe l'altro, che poi l'altro fa altre cose, se, però non a fare la linea Pindola Nostra, dove diciamo che ci sono nel Molese, nel Campidano, bisogna vedere, ma io stavo aspettando un amico, ieri purtroppo è stato questo imprevisto della 50 e niente, però claro, fa io se la devo fare, la farò, hai capito, devo valutare solo la situazione. Bene Mario, è arrivato mio figlio, ti devo salutare, è stato un piacere chiacchierare, a me chiacchierare mi piace, ma del più e del meno. Niente, adesso vediamo come è portata la roba qui, mi darà le direttive e cosa devo fare, come piantare questa roba, perché magari è mattana, ma devo fare questa cosa, se anche è portata, secondo dove mi ha detto, è un po' faticoso, io ho una mano destra che sono indolenzito, non so perché, sono già più pressione non fare questa mano. Ok, ci sentiamo Mario, saluto anche tutti gli eventuali ascoltori che sono le 5, la K2 passa in QVTSK, vi auguro una buona domenica a tutti, ciao Mario. Ciao Capri, buon proseguo, buon tutto e divertiti, ci sentiamo tutte le prossime, ciao ciao. Mario, grazie, ciao. Salutone Alberto, salutone ben sentito per la premiera. Stazione Piccia. Sì, guarda, non modulo quasi mai, questo è un Alan 38, un portatile ma con l'antenna, con una boomerang esterna e alimentato da alimentatore, dai. Se mi dici la posizione, come mi ricevi? Io sono al viadotto, diciamo, al viadotto con questo Alan 38 4 watt. Qua si Santiago 910 e la radio 5. Dove sei più o meno? Tanti, chi è? Sì. Comunque va bene, dai. Ciao Paolo, ciao all'amico. Ben sentiti, ciao a tutta la ruota. Buongiorno Antonello. Ti volevo dire, ogni tanto fai delle prove così, non entri mai. Comunque noi siamo sempre sul 5 e sul 10 a fare il QSO ogni sera. Se ti fa piacere. Guarda, molto, molto volentieri, perché la passione c'è tutta, però per vari motivi, tipo i bambini che senti in sottofondo, non riesco mai a accendere nessun apparato così, o i vecchi apparati che avevo anni fa, ecco, però se capita con piacere, piuttosto grazie del controllo, ma se mi dai la tua posizione così mi regolo, anche indicativamente dove sei. Zona Lima Delta. Ah, ok, va bene. D'accordo, quindi esce ancora bene questa radio, insomma, dai. È un pezzo storico, però ancora esce. Ah, sì, no, esce benissimo. Va bene, proprio. Per quanto è stato fermo, un pochettino perde di modulazione, ma purtroppo magari c'è qualche problema lì al PTT, ma comunque già si possono risolvere queste cose. E ok, saluto anche l'altro amico che è entrato in ruota, che non ricordo il nominativo, e diciamo che rimango in stand by perché non riesco a stare vicino alla radio, ecco. Capo, se hai perso il segnale, se Santiago 5 dovessi controllare i PL qualcosa, non ce l'hai qualche altro apparecchio in più? No. Sono l'amico. Positivo del capo del Rogero, vediamo se ascoltate me, come. Adesso non si sente più, è mancato di radio, è mancato. Chi è Falchetto? Non è Falchetto, no. E beh, Antone. Che cappa, oi. Qui non riesce a riconoscere le modulazioni, ga. Chi era? Io sono con questa radio. Stazione Radio Vela, operatore Pierpaolo Conghe. Vela, oggi sto appeso. Importante che tu mi ascolti, Conghe. Me lo dai un controllo, Vela, quanto ti sta arrivando? Il Santiago è 8, la radio 5, Conghe. Si è a fondo scala, vabbè, è un tiro di schioppo. Contraccambia, dai. Chi è che sa che sta facendo la Formula, la Ferrari, la Formula 1? Nessuno? Acceso relativo. arrivo, ce ne sono ora ora. Ti prendo un attimino il turno io, sempre Alberto da questa parte, visto che ci siete e siete così disponibili, datemi anche un controllo in bassa potenza, quindi ora sto uscendo con i 4 watt, adesso passo in bassa potenza e mi dite se cambia in maniera sensibile, insomma datemi il segnale così e poi così. Buon Santiago 9-10 e l'altro Santiago 9. Ok, vabbè, probabilmente siamo molto vicini allora. Vabbè, siamo un po' vicini. Comunque va bene, dai. Meglio di così non si può. E speravo di riuscire a provare questa antenna con qualcuno un po' lontano, ma mi sa che siete tutti quanti in zona stamattina, ecco, non so, speravo, se volevo provare a vedere verso direzione Ittiri, così se, visto che ho la visuale aperta, ma non ho fatto un giro di canali, non c'è più nessuno, insomma, siete i primi che incontro stamattina. Magari gli altri entrano più tardi, entrano, adesso non ci sono in modulazione. Va bene, dai, io continuo a spolverare vecchie radio e roba, insomma, materiale che non uso da qualche anno e resto qui in ascolto, dai, un saluto a tutti. Attenzione, amico, ascoltami. 100%, avanti. Positivo, stazione Vena, operatore Pierpaolo, nome Butibuti, come mi ascolti? E allora, considera che non ho uno smitter, perché questo è un Alan 38, un portatile, ma ti ascolto a palla con una bella radio squillante, tutto molto chiaro, un bel eco, insomma, molto molto bene, ma non ti posso dare un segnale per le limitazioni della radio, ecco. Break. Positivo, registrato il break. Quanto Santiago 9 alla radio di 5, facciamo già il break avanti. Buongiorno a tutti, dai, Gianni Doppio Room. Chi era l'amico che non lo riconosce? Alberto da questa parte, ciao, buongiorno, forse ci siamo sentiti qualche volta in passato nei mesi scorsi, ma non modulo quasi mai, quindi è difficile che ci siamo già sentiti. Buona giornata comunque. Contraccambio il tutto, al tetto, QRA famiglia. No, infatti non mi sembrava una voce molto conosciuta, non so se tu abbia già modulato, che cosa, però non mi sembrava molto conosciuta la voce. Va. Mi prendi Pirino. Positivo, buongiorno comunque, Gianni Doppio Room. Buongiorno anche a lei. Grazie per il lì, vicino numero. mi sto per uscire, volevo proprio a Marco al parco, che vuole andare al parco a giocare, e sta andando a portarci. Positivo, dai. Così almeno ti prendi un po' di sole. E lì non ce n'è tanto, vabbè, ma ci sono gli altri. Va bene che tu vai a vedere le bambine, No, no, non mi interessa. Ho sconvolto dalle donne. Si è sconvolto? Quella è una cosa positiva, Brutto segno, brutto segno. Mi fanno sempre adirare queste donne, quindi ho detto così per quello. Dove lavoro ce ne sono quasi 50 di donne, capito? Ogni giorno mi devo incazzare. Grazie, vale. E tu piaci donne? Tu lo mangio di più a tutte, vedrai che si addolcisco. Ah, non ti piaci donne, le mangiano io questa la mattina e poi si apre la voglia. Io regalo le mangio di più, vedrai come sono dolci dopo. E dove siete per far caso? Positivo, sto facendo cosa. No, io adesso un po' me ne esco. Adesso non lo so se me ne esco a piedi o in macchina, forse a piedi, perché ho voluto fare 4 passi. Per fare 4 passi, basta andare a casa e 4 passi sono fatti. No, ma da casa del monte sono vicino. Ma cosa, il parco del monte, porta un altro parco. Ve lo porta, Monserrato lo fa, non era mai sicuro. A Monserrato, ma mica porta un parco lì vicino. siccome non costa Matterland quest'anno. Ci sono solo i puntati per me. Vabbè, che i bambini hanno anche diritto, quindi qualche volta ci portano, ma non dritta. È incredibile ormai, sono tutti a colpi di 3 euro a giro, anche le giostrine per i più piccoli. Cioè, è diventata passare 2 ore a Matterland vuol dire imbarcarci 30 euro. Se ti basta, io mi saluto che vado e mi faccio il giretto e poi me ne ritorno a casa. Andate, vi saluto tutti cordialmente. Ciao, saluto tutti, avanti, per favore poi fai il giro. Positivo, là, è buona uscita, buon tutto, buon proseguo di giornata, ce la ascoltiamo nel prossimo, dai. Ciao. Ciao bambini, ciao a tutti, fa la domenica, dimmi, ce la farai anche io, saluto l'amico, se non sbaglio, può portare un serrato, ho capito bene, se saluto, mi auguro una buona domenica, che anche io ce la farò qualcosa e proseguo, dai, ce la risolviamo tutti alle prossime, dai. Circolare a tutti, buona domenica, chiudo. Buona domenica anche a te. A mare vai. Ancora troppo freddo, vai a mare. Ma vai buono, un riso, è pieno. Ti arruso, Giulia. Via! E che ci sia un vino. Di persone, di avere anche qualche controllo a distanza, che mi interessava verificare lo stato di salute di un paio di radio. Va bene, dai, davvero per me definitivo, chiudo e buona giornata. Cappa, chi ti ricordi dalla frequenza? Una cosa approssimativa. Guarda, qua a Sassari io modulavo, stavo a Tempio prima, quindi non ci corrispondono sicuramente le conoscenze in frequenza. Invece qua a Sassari ti parlo del, fammi fare un calcolo, là, del 94, quindi se ti dicessi che mi ricordo un nominativo direi una bugia, mi ricordo solo uno, credo Falcone si chiamasse, che era sempre, modulava sempre, lo trovavi a tutte le ore su tutti i canali, tale Falcone, questo mi è rimasto in mente. Cos'è il gioco della calma che ha fatto? Oh no, mi ricordo che era un tipo un po' particolare, mi ricordo anche che poi ascoltando in frequenza stava giù, aveva il QTH giù nella zona di sotto Santa Maria, credo, lì dove c'era il consorzio. Gamba, adesso ce l'ha ritirata la sorella, no, non sa più niente. Una scena era. E un'Europa. Purtroppo Paoletto era così, si incazzava, faceva giochi della causa, già l'avrei sentito tante volte. È l'unica cosa che mi ricordo, perché avevo una modulazione abbastanza riconoscibile, dai, diciamo più che una modulazione una voce. Già lo so, già. poverino, vabbè, succedeva, cioè, si poteva capire perché non era sano, dai. Fa gaffa. E questo è Antonello, Pomponio, te lo ricordi? Senti. Va bene, dai, ce la risentiamo. Parare! Non fa che si ti riprego! Che perché io ti ho chiamato e tu non mi hai sentito. Ma ti chiama la nonna, sì. No, no, no, sì. Nonno Luigi, accetto. Sì. Sicura, sì. Sì, che sono sicura. Passami. Ha detto che stiamo facendo cosa? Va bene, interessante che ci sia lui. Io non posso sempre dire al nonno che qualcuno la vuole e che non mi sta lavorando. Ho capito. La linguetta non te ne manca. Quante ne c'hai adesso? Quando ho finito te lo passo. Va bene? Ok, ok. Ho detto, quanti anni hai adesso? Faccio aspettare le persone prima che non ho. Che prima stai facendo una cosa, faccio, devi aspettare. Certo che aspetto. E tu quanti anni hai? Il figlio tonto. Beato. Il figlio tonto, perché se costringi a farlo parlare, poi non parla con te. Beatrice. Ehi. Che servo mi dica? Ah. Scusa, mi senti? Ehi. Ma mi senti? Già ti sento. Ma io non piatto sempre. Ehi. Mi vuoi far raggiare? Mi sposta. Sposta, ti sposta. Ciao Berti, là. Poi quando non lo vuole entrare me lo dici. Va bene, tata. Ma non mi ascolti, boh. avanti. Ma se io ti rispondo, poi... Ah, ve lo chiedo su un altro canale, mannaggia la mia zia. Ascoltami, aspetta, no, ora stavo... Ti stavo provando dall'altra parte un altro microfono, vedi un po'. Prova, vabbè. Come ti piace? No, non sto uscendo bene. No, no, sto uscendo di radio, però non bene. Sì, funziona, però no, è tutto strano. Brutto, brutto, sì, non lo sei tu. No, non sta andando, non c'è problema. È positiva. Ma come ti è questa cosa? Io ti rispondo, tu, forse te l'ho girato l'altro canale, così. Assente, me ne ha accorto. Altro era, io sentivo quello del 5 che era sopra e quello là era il 7, era un non è capito. Caparrocchio, voglio lui, attacca la zona grande che voglio vedere quando tu stai parlando nel posto di canale, questo non è così. Questa è l'antenna grande. Ma hai visto Massimiliano, è l'antenna grande. E chi c'è l'antenna manda, chi c'è? Allora, devo andare all'otto per non sentirti più. Addirittura, mannaggia la miseria, oh. Scappa Roger, all'otto mi devo spostare. Prova. No, sì, ti sento proprio un'idea, proprio quasi niente. Essere, cosa mi gioco? Con l'altro, allora vamo sul 5, dovevo andare 6, 7, nell'altro non ti sentivo più, invece nell'altro nel 6 già, non, cioè ti sentivo proprio un'idea. so che dirti, boh. Allora, tu non me l'hanno mai. Tranquillo, cioè, hai visto, non... lo stavo lasciando un po' accedere, faccio... c'hanno un sì qua. La radio è buona, bella, corposa, bella. La parrocchia, guarda se ascolti a Gigi Ariello con una magnete, cavallo. Potrebbe essere o il 440 o il 140 con l'MC60. No, è 4.40 con l'energia 85. Sempre un pivot. Kappa. Sì, buonasera, rispondo subito. I baracchini vanno bene per la 27, che vuol dire non si possono usare 27. Sono stati modificati per la 27 ma non si possono usare. Noi con la 27 con i baracchini possiamo parlare. Voi con il Kievod per la 27 non ci potete neanche entrare. Lascio per voi. Buonasera. Ehi, d'accordo. Ma il Kievod? Che è il Kievod quando è 27? Quando li copri l'uovo dalla scatola quando è 27? Io comunque so che chi vuole in 27 se non li muovi da qualche cosa da retro, in 27 non ci vanno, poi non lo so. Io ho sentito dire, io non me ne intendo di quelle radio perché non mi interessano, però ho sempre sentito dire così, poi bugia mi dicono, bugia ti sto dicendo, non lo so. Tanto Carlo? Anzi, vabbè, allora sarà così, non lo so. Comunque, io so che non ci possono andare lo stesso, perché non erogano 4 watt in quei apparati. È positivo, è quello che dico, perché per questo qua mi sembra che ha anche un motivo perché non possono entrare in questa radio. Voi credo, non esisto, no, la verità non esiste. Yeah. contatto con ISZ Italia. Avanti questo signoro. Buonasera. Ascenso procede poco. 0 completamente. Cava, cava, avanti. Brucia, brucia, brucia, brucia. Dipende da lei se è di rullo, su che andiamo. mamma mia. Ehi, la domenica che passa per riposarsi, per fa, sempre qualcosa si trova da fare. Capo, bisogna fare, perché sennò uiuia. Io non so, come ho smesso la tuta di carta, le conosci quelle tutte di carta, insomma, che cosa sono, e poi c'è il cappellino pure, c'era in questa che ho comprato, Capa, quelle usa e getta sono, che sembrano... Io ho capito, quelle sono bianche che sembrano di carta, sì. Non so che è marcare, cos'è, papiro, non so, forse poi stirò con materiale così e poi da rotto e ci butti via tutto. E sono molto comode quelle, costano poco e non stai lì a rovinarti la roba. E sì, già è quelle. E tu le conosci quelle? Qualche. Capa, le conosco, le ho indossate qualche volta. Sono molto comode, proprio usa e getta e via. In un attimo si fa tutto. Infatti le usi, le getti, non ti sporchi niente, cioè sono abbastanza comode. È vero, confermo al 100%. K di positivo, va. Ma io come se quando come mi faccio una merendina, uno yogurt veloce e poi vediamo un po' cosa passa al convento stanotte. Va bene, dai. Ho mollato tutto qualche. Prima un bicchiere lo bevevo pranzando, adesso sono più di una settimana proprio mollato tutto, acqua e poi naturale per giunta. Prego. Prego, l'amico. Hai capito qualche? Papà. Avanti prego. Buonasera, mi date un controllo radio per gentilezza? Avanti per il controllo radio. Sì, mi servirebbe il segnale radio, buonasera. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allora, qui nella mia postazione 9 più 10 è radio 5, avanti qualche. Nella mia postazione radio 5 e un Santiago di 8, lei. Quindi va bene? Perfetto, anzi 9 sì, la verità si dice che sono controllato bene, 999, bene bene. E 9 di segnale? Positivo, positivo. Ah ok, io sono 9 frequenza, buonasera. Non mi sembri nuovo? Ho comprato tutto ieri. E che sei? Marmitone. Marmitone, aspetti, marmitone. Va bene marmitone. Perfetto, accento, dai. Riprendi Giuseppe, marmitone è tutto per te. K di positivo. Buonasera e ben entrato. Pierpa, tu sei già in partenza? Positivo, io sono andato, dai, mi faccio questa sciacquatina e poi già rientro. Campa, fai con comodo Pierpa, fai carica, fai tutto quello che devi fare, non ci sta problema, anzi non sai cosa fai Pierpa, fai come che sei a casa tua. Io faccio così, dai. E vieni mon amico, e vieni. Avanti fai questo che io mi avvicino un attimo a mettere a posto il salvatore. Positivo accento. Alla bene mela. Che dire? Vabbè, tanto vuole fatto. Giuseppe! Avanti Pierpa! Meglio andava quella cosa! Cavolo di lusso Pierpa! Un bombon! Se c'è qualcosa che non va, dillo lì! Assolutamente no! Sto andando con lui adesso, l'altro è spento! Capo è positivo, vai! Bene si comporta! Di lusso, bello, silenzioso, guarda, è un amore veramente. Mi hanno messo lì a fianco, adesso sto usando proprio lui, l'altro ce l'ho a fianco però è spento. Cappa, va bene, ci sentiamo. Cappa, però quel che faceva prima di cosa sembrava come passaggio di corrente non lo fa più. Cosa faceva prima? Sentiva come un passaggio di corrente, lo sentiva da un attore, ma c'era in sottofondo, no? Adesso non lo fa più, è come nome? Pierpa, qui è tutto Roger, tutto K, tutto ok, non è niente da dire, il lavoro guarda fatto a regola d'arte. Dai, ti lascio alla tua voce adesso, Pierpa, e ci sentiamo più dopo, tanto anche io già sono qui, io sono beato in pigiama, e guarda, oggi è proprio giornata da pantofoli, quindi. Positivo. Avanti, va che... buona doccia, buon tutto, dai, anche io vi fra pochissimo. Faccio una piccola carichetta, così sono libero, mi metto in condizione di poter moderare finché posso. Chiamate Roche. È positivo, fai. Noi siamo usciti stamattina, ho portato la piccolina con la mamma giù a prendere un pochino di sole e ci stava abbastanza bene, senza allontanarci molto, eravamo lì alla rotonda e talmente si è stancata che rientrando si è riaddormentata, figurati. Adesso siamo usciti un pochino e io sono qui a casa, anche perché non avevo voglia di uscire stasera. Perché anche a me sembra così, ma abbiamo camminato nella sabbia stamattina e un pochino me le ha appesantite le gambe. Beh, positivo, poi la sabbia si sa che è pesante, Giuseppe, si sa che camminare sulla sabbia è pesante e si stanca, la verità si dica. Bene, già va bene, dai, importante se si... come si usa dire, essere riusciti a aver preso una bella boccata di ossigeno buono, è tutto qua, già va bene. Pappa, l'importante è partecipare. Pappa di oggi. Ok, Giuseppe, io faccio un attimo di quel mix, dai, che mi preparo le cose e riprendo subito, dai. A più dopo se coincide. Cappa in positivo, ho sentito l'amicaccio che sta uscendo, ciao, buona serata e niente, e buon tutto, ci si sente alle prossime. Ok, allora io Giuseppe, forse abbiamo parlato insieme, no, sono appena rientrato, per vedere la partita, oggi è una partita importante, Roma Lazio dunque, adesso dovrebbe essere che già iniziata da 2 minuti addirittura, ci sentiamo, ciao. Andiamo a vedere la partita, riprendi, ciao Forte. Ciao anche a te. Noi arrivo adesso, me la guardo e sono qui tra televisione e baracchino, ce la risentiamo a più dopo, ciao. Ok, si stanno zuffando, mi voglia. Roma si stanno già zuffando. Vabbè, ciao. Ciao. Bagaba. Shut male tutto. I cucci, un altro, se si è passato, sono la cadena, mi la forza, e grazie a Dio, e dalle lenti. Ehi, un amore. Anche Davide, intendente da Davide. Ciao Luca, come va? Bene, Davide, mi ascolti? Cappa che ti ascolto, tu mi ascolti? Auguro, la 30 sì qua. Cosa facevo? La 30. Buono così allora. Guarda che non mi piace, sul troppo non mi piace. Quando trovo il nostro microfono glielo metterò a questo. Qui se ti pone di Emile andare in Cosa Mara. Cosa ti stavo dicendo? Mica ce l'ho uno in vendita, Davide, se ti interessa 50 euro sto vendendo. come quello che c'è babbo tuo, il, come si chiama lì, non me lo ricordo. No, quello che usa anche Alessio, che è fissato, ma non mi viene il nome, vabbè dopo te lo dico, quello che ha una forma strana, Luca. Ah, 2000, no? Sì. Pensate, sto dicendo. No, però mi ascolti bene, là. Io sì, sono contento che ti sto chiamando a 9.30, sono sempre con un allenino, non ho fatto nessuna modifica. Sì, 9.30, sì. Come c'è la telefonica? Ma che se ne sa allora? No, forse abbiamo parlato assieme. L'ho detto, forse è la tua voce. Dimmi come senti a Davide Natalì. A Davide lo se si sa perché ero nella Buzzi. Davide, come viene avanti? Natali, come mi senti tu? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Che no cazzo, tu hai piazzato l'antenna, parla insomma. No, non mi ho passato, vieni sotto il caso, guarda se mi ha piazzato l'antenna. E non è possibile, io ti ascolto bene, adesso sono in macchina, sono dietro a casa di Gianni, si può dire, là. Prima non ti sentivo da casa neanche. Sono contento che allora mi ascoltate tutti bene. Comunque l'antenna non mi ha piazzato davvero, Natali. Ma che cosa però è arrivata? Che ora si scendi, Davide, là? Magari l'hai spostata, non lo so, però già stai uscendo, perché ti ascolto io sono vicino alla fine di via Graziella, dammi lì. Non stavo facendo bene massa, l'ho detto. Con voi non me la si sta andando bene. Davide sta facendo da un fiore. E a me frega, sicuramente l'intenda va. Se non gioco rispondendo vuol dire che l'intendo. Mi alla casa arriva a 9.25, ti riguasso. Infatti se arriva 9.25 a te arriva 9.25 anche a me a casa, quindi non faccia il pirla, a parte il fatto che adesso sta andando a casa e accende l'apparecchio di casa, e quindi se lo sento da casa vuol dire che qualcosa ha cambiato. Dici la verità, la verità. Dai Davidino, dillo a zio Natalino tu cosa hai fatto, eh? Davide, io sento tua madre. Davide, confessa, fai da bravo. Natalie, io sono sempre bravo. Cazzo, fa una cosa che sono nella strada di casa, ho superato il forno già. E lo sento di lusso. E avrà l'aiutino, va. Ma cosa ha fatto? Sicuro, perché non è possibile, non rintindivo, no, io manco usosa rintindivo quando mi abitava l'anchivi, assolutamente. E io non era ci Davide, dai, siamo curiosi, cosa hai fatto di bello? Allora, Pompone ha comprato una staffa di parabola, dopo ha messo una specie di palo piccolino e ha cavitato la bicchiere di mille, ha posto così. Adesso fa massa bene allora, ma non le ha messo nemmeno nessun aiutino, niente. No, sì, quello della macchina, quello che c'era prima anche. Sto scendo esattamente come prima. Cappa, cappa. No, adesso esce bene, deve essere azzeccato bene la massa. Beh, è logico, ma se... Non lo so, quanto fa che sto scendo esattamente come prima. Quella multibanda, sul palo. Capito? E prende massa e scendi. Cazzo, si rintenda là, i noghi. Sono dopo la Madonnina io adesso, l'ho sentito. Cappa, cappa. Forse perché ho pulito l'antenna oggi. Dai, lucidata. Un po' di CRC dappertutto gli ha messo che si è inciutata, non è una regia di Montanira. Oh boh. Poi ha preso tutta quanta alla navacciaia, l'ha giù passata, l'ha giù da Dio, dai. E in più gli ho messo il CRC dove ha vita, sia nel bocchettone dell'antenna che nell'antenna dove ha vita, capito? Eia, eia. Giù, non riuscivo a smontarla quando me l'ho tirata dalla macchina, ieri non ho visto che ero senza antenna, oggi me la son pulita e me l'ho piazzata in macchina la situazione. Alla gara, quindi a posto, là. Magari forse la sento per quella, Davide, non lo so, ma se la sento a casa non è questione di pulizia l'antenna. A chi già con l'antennata non rintindivo ero giù, Zaru. Siete scendi da anch'io, sta tranquillo che cosa ha fatto. E prendi massa, vuol dire, vabbè, carta è pochiata, che antenna lì, io poco. La tua? Ehi, dalla strada, la sto guardando. Tu ci hai messo pochi tiranti per me, Natalino. ce ne deve mettere due fili tirati, uno sopra e uno sotto. Ma cosa te ne fai di due fili di tiranti quando sui vetri sono attaccati alla casa? Voglio compresi. Sei metri sono attaccati alla casa già. E tanti. Allora, migrata mi dice a casa, già di gridi. Puntano fuori i 6 metri, cioè ho alzato un po' il palo di sotto, quello più grosso, no? Per recuperare il 1,20 m che ho tolto da quello fino. Nel senso che 1,20 m entra dentro quello grosso. E allora quel 1,20 m ho preso e l'ho salito, anzi forse più di 1,20 m, ma 4 o 5 metri sono 4 metri, va, saranno attaccati alla casa, quindi non fanno né forza né da un lato né dall'altro. Vabbè. L'inverno darà la risposta, vediamo un po' se regge bene. Credo che regge bene, l'ho messo proprio in punta la cosa dei tiranti, la croce dei tiranti. E la volta la fa lì. Capitan Mario Marcia, se l'ho messa per quello, perché lì non l'ha messa in punta quella fare lì. Io vado in bagnana ci buccio due fili da buone. Sarà esagerato, però col vento che tira a casa, il vento di mare, specialmente maestrale, vengo delle antenne che tu sai che si bigiano in due, cazzo. La mia rimane mezza tranquilla, non si muove un millimetro. Bisogna vedere adesso come l'hai fatto tu la situazione, perché quello che conta, la forza la fanno lì in punta, capito? Bisogna vedere com'è la situazione, se adesso io non me lo ricordo bene come l'hai fatto. Vabbè, va, se riprendo a casa così vedo se lo sento andato, perché se lo sento, se arrivano a 9.25 a te, anche a me mi arriva così. Vabbè, ci sentiamo là dentro, va, insomma di fatto è una gara. C'è anche Lucrezia, c'è anche Lucrezia, Lucrezia là. Che cava, vabbè, vai là, dammi il tempo, mi preparo 5 minuti, poi mi chiami e faccio sentire dalla macchina, dove sta in Italia? Cappa, sto nascosto a fare due chiacchiere. Mimi, ah beh, l'intendo pure dai nocchi già. Lascia verde, arrivi, eh. Che dove signora, la sta lì? Adesso sono a casa. Beh, sono contento allora che siamo bene anche di lì. Prima non arrivavi assolutamente. Adesso già ti sento, pittina. Era la massa. Tutto qua era il problema. Infatti l'eccezione però sono per noi no. Ne ho pochissimo, a te dopo un po' ti ho perso. Infatti non ti ho più rinunciato. Ma a me io ti sentivo sempre invece. Non ti ho perso un attimo. No, no, io proprio ti ho... Sì, sentivo che stavi parlando perché si trovava qua in M, però... Niente. Ho capito. Vabbè. Cosa vuoi, un antennino, Gianni. Gianni non rispondi. Gianni si sta preparando per portarsi il microfono. Per... Perché ci sta preparando Gianni? Tu! Davide! Me la dai! Per che cosa si sta preparando Gianni? Per portarmi il microfono alla sorella! Ah, ti sta portando il microfono! Scappa! Gara gara! E avanti! Io non ho fatto scusa, stavo provando l'apparecchio, scusa. Sì, perché ti stai scusando, non ho capito. E mi è uscito un colpo di portante, stavo provando, non sentivo nessuno e ho dato un colpo di portante. Sì, vabbè, no problem per quello. Giuseppe. ascolti ancora, davvero. Non mi ascolta più nessuno. Bene, bene, ti ringrazio. Ascoltiamo alle prossime. Ciao, ciao. Ciao, non è così Gigi. Avanti, break. Attenzione, Gian Maria, via. Avanti, Giuseppe, di mu. Grazie, passato, messaggio passato, e non per, diciamo, non mi risponde, che madonna, che passo è chiuso, non va là, eh. Ehi, carta 27, mi. 27, e tu, Lu? Ehi, come ti fa palla? Bene, bene. Ciao, Giovanni. Ma quale passo? Poverino! Vedete, perché? Oh, adesso lo vedo là. Io ho ricercato 20 anni che non sai che lo vanno vinto. Anche io non so perché tanto mi pare, lo sai. No, no, non fare più piedi, no, ma se vai un po' a ore... Lo sai? Allora, dove prima di andare a casa di Luca Flip, giri prima, così è. Allora, lasciamo perdere le poste, dalle poste scendi verso, verso giù, scendi verso, verso, verso giù, verso i giardini, dove c'è il quarto vento. Faccio da per poco perché io facciamo che fosse dove c'era la banca. Antonio, non lo senti a Gianni? Io sono la frutta e verdura, Antonio. Sta scendendo. Positivo il camparrogero, lì è. Anche non me lo ricordavo io adesso. Qua siamo io. Pagava. Non c'era. Quanto ti faccio? Qui noi abbiamo finito di tingere poco fa, adesso ci siamo riposati un pochino. Mosse maglia. Perché non lo stai uscendo? Ehi, io Sì, pure io ne ho. Ce ne sono due. Si abbassano. Diretto, per non stare sempre in casa. Già, sali qua. Se mi stavano a prendere le sigarette, la lì. Ma la tre sigarette a voi altri, no? Sono al computer qua. Vabbè, no. Le ha aperto la tela? Sì, le ho prese io lì. Non so per quale cacchio di motivo, io sono stato a fermare, è arrivato il messaggino, ormai io qui l'ho fatto amicizia con un bravo organizzista di Pallo Sardo, qualunque sono lei, se va alla macchina e ne scende una damigianetta di vino. Abbiamo fatto di ore piccole e sono full ordine, poi abbiamo un'altra manifestazione e guarda tu, meglio non ci esco più e così. vabbè, poi si sa, no, beh, un bicchiere poi attira l'altro e va a finire che poi ne rimane cerchietto, anche perché in effetti sarà vino forte, già. Sarà per quello, va bene, avete lasciato un po' il mal di testa, voi avete fatto anche le ore piccole, giustamente influisce tutto, ecco. No, ma forse nel 28 sperando che sia l'umidità, perché poi ci siamo messi a chiacchierare fuori, ma guarda, ma non si sposta era, hai capito? E niente, poi lui c'era un'altra manifestazione, questa partigiana ecologica, lui doveva tornare al centro culturale, sono stati calcolati male i tempi, era tardi a piazzare tutto il servizio lì, perché poi c'era anche il coro del paese, e questa roba di poi rialzarsi, quindi stava suonando a braccio lì, e anche ben fresco ancora, e io me ne sono andato via prima perché mi sono rotto le scatole. Grapparocci. Ah, Paderogero, vabbè, l'importante è che sia un po' divertito, e che sia andato tutto tranquillo. Gava. Già va bene. Oh, bella roba, che ieri c'era il pienone in questa palestra che è fatta a Teatro Fedari, c'era il pienone, però io so, hai capito, sono andato non per vedere la sedia, per incontrare un amico che poi non è venuto, e niente, anzi mi ha telefonato lui che era entusiasta di venire per stare assieme qui e là, invece poi la moglie è stata poco bene e non sono venuti, per la moglie gira la frettuto per una pressione di Sardo, e fai il mondo proprio per stare assieme per fare del più del mio. Niente, invece poi la roba si è finita con la damigianetta, ma più un po' quanto ti dico, però non è quello, forse non mi dica, io sempre un leggero mal di testa, mi sono alzato stamattina con un leggero mal di testa e c'ero tutto quanto il giorno. Gappa. Vabbè, le fritte sarà un po' di... come avete preso umidità ieri notte, dai, non è magari neanche colpa del vino, perché il vino ce lo fanno buono in quelle parti, dai. Niente, c'era magari un po' di umidità che avete preso da qua, dai, non... niente di preoccupante, dai. Ma poi lui non ha nulla, ce l'ho io questa roba, ce l'ho, quindi non lo so. Lui ha, perché lui ha voluto che scriveva anche, non lo so, e vediamo un po', si vuole entrare su 5. Chiacchierato, ci ha invitato, ha detto che la sua, non lo perché sta terapia non so cosa, però ci andremo nel suo tempo buono, sempre quando abbiamo tempo libero, perché c'ho mille cose da fare. E siamo stati in buona compagnia, però io sono oggi un giorno fortunato. Ehi, vabbè, la passa già, non sono stati tutti così male, davvero. Ehi, sono cose passeggere, dai. Purtroppo lì, secondo me, ha preso un po' di freddura in più, Lasciala lì alla danza. Che già, ma tu, non già, stavo importando veramente il coso al bicchiere del vino, però lui che ne aveva quella parte era bevendo. Ora mi già la grande, mi sta messa in questa cosa, stavo sempre importando, un vino buono, proprio che ti piaceva al palazzo. E niente, ma magari per l'umidità, sono anche un pochettino raffreddato, e stasera potevo buttare le mani addosso, che c'era questa, si iniziava sempre ad occhiarlo, e poi sono dovuto salire da lì perché seduto fini sulla platea, però siccome prima sono pensato nel suo figlio, guida, tutte quante, e poi Ottavio non mi ha fatto un po' il mio, mi hanno chiesto un tango, no? Dopo un pezzettino di poi tirà a dire che siamo messi, non c'è, così, però poi me ne sono andato, non più di tanto, non si resta, e stavo per mettere le mani addosso a una cosa, rimasto, non mi già capiterà ancora, perché c'è un nome e cognome anche della pipa, ripeto. Pagava. C'è quel colpino che faccia di c***o. Dove vedi di sé? Sono da Monzere. E salto bene, dove ti trovi già? Sono la Erocera. Fatto Francesca, canzone della scena adesso, vediamo come l'hanno preparato, vai. Scendo, ma guarda, fra 10 minuti sarò qui di nuovo, perché faccio le pagine gerissime di notte, giusto per dire che mi ho mangiato qualcosa. Come si immagina? Sì, 2 minuti sono ben loro già, stavo per buttare la mano a una cosa stasera, e non mi passate l'osservata, no? Tranquillo, mi potrò dire tranquillo al 100%. C'è roba del Tassari, roba del Tassari, e anche se non c'è un tornato che ti rispetto già. Hai capito, già sono per beccare. E vado a cenare adesso, a cenare, appena a mettere qualcosa poi di fretta, dopo rientro, non durante pure, lo lascio accendo, vai. Buona carica già, buon tutto, vai. Ciao Gianni, mi hai sentito, vai. Gappa. Avanti, Natalino, se ci sei. Ci siamo dopo, già, vai. Natalino, ci sei? Eia, sono rientrato adesso, dimmi che ero fuori. Sei mica sto salendo? Sì. Tallina. Carissimo. Allora. Io accendo stamattina presto, ma non c'eri tu. No. Io ho fatto la notte pescando. Sono rientrato stamattina, ma non presto, eh. Ecco che ho preso, che di notte va a pescare subacquea. No, negativo. Dove sei andato? All'Argentiera, ma non per nulla. No, avevo solo gettato le canne, ma non per nulla. E te l'ho detto di andare là, col fucile vai là. Mica ci sono forse fatti i grughi anche questa settimana. Capa, ora c'è un bacio saltino. Questa settimana c'è una nuova, c'è un saltino lì. Ma là, i grighi le rocette bianche, è tutto pieno di seppia. Capa di rocce. Ma è anche le Bessara, che è? Ma è tutta la roba del Bessara, che di quelli tutti da 600-700 grammi. Si posso anche credere. No, ma lì è morto, lì non c'è più, no, non sta entrando ancora il pesce lì, boh, non lo so. E te lo detto che sono andato con Salvedio io, cazzo, quando solitamente quando vado io senza luna non ritorno mai. Non mangiava nulla, proprio il verme lasciato e trovato lì. Sì, io guarda, ho messo il verme lì che è blu, lì domani mattina ancora il verme c'era blu. Guarda, è preferibile andare a Porto Torres per di più roba. In effetti è vero, eh. Strano però, è azzurro sto pesce allora, eh? E magari c'ha le tane e certi punti, boh. Ho trovato una tana di ombrine, un anno, meglio più grosso, ma tutti ombrine da un chilo, chilo e mezzo, eh? Cappa di roccia. Deve essere una bella zona quella, deve essere una bella zona, ma già ci vado sabato. Buonanotte è stata sempre pescosa la zona, c'è poco da fare. Per peccato che hanno messo la sirda da voi, ha cominciato un po' a inquinare cose, sennò quella è una zona di cui sono vero. Ehi, Cappa di Roccio, Cappa di Roccio, andiamo su diretto da Tarino? Fammi stare a trovare la terra a casa sua. No, ma aspetta, mi chiama, perché? Mi chiama Falchetto. E che chiama? Vicino. Verso. Metti lì già. Ehi, come mi stai ascoltando? Qua siamo Santiago 9, 9, 10 quasi, la radio è 5. Adesso. Chi chiama? Avanti che chiama Falchetto. Questo Falchetto la scena, eh. Natali, però che chiama le abbono lettere, come ti si vede nei detrattani, Antu? Carissimo! Carissimo! Allora dico a Tarico, non è che si devono fregarmi, non ci devono fregare di meno, dico a Roma. Sarà bravo. Mi chiama Messico, di Tiaghito. Sarà bravo. Oh, Antonello. Sarà bravo. Oh, vai tu. E con noi è? Via. È la radio che vacca. Si ascolti qua questo piccolo sporco nero. Ehi Mario, buonasera, ben sentito. E dove sei in movimento? No, è qui, a casa. A casa sì. Ma non no. Mi sembra un po' strano. Siete strano questo giocattolo qua. Ehi, bene, bene, di lusso. Faccio segnare la radio com'è questa studia. Bella, bella. Bella di lusso, Mario. Sì, ma non è paragonabile alla mia, no? No, vabbè, tutta l'altra minestra, la tua, è sempre tutta roba mia, ma comunque. No, va bene, vabbè, considera che l'antenna è in condizione precaria, va bene, ma anzi, per essere così stai andando alla grande. Salutami a Tonello, Mario. Ciao, Fagre. Oh, ciao, Tonello, ben sentito. E la fianca a me? Cava di Rogero. Oh, Antone. Già va bene, dai, anche se è piaciuto così, alla buona di Dio, diciamo, già va bene. Già, Paolo, che ti sta chiamando Gianni, Mario? Gianni, capito, siamo da popolati. Ma se le connessioni erano uguali, te lo da Dio. No. Sì, ti ha detto Gianni, se le connessioni erano uguali. No, negativo. Stai facendo tu? Mario. Non devo fare, ma non c'è un saldatore. Credo che connessioni c'ha, Mario. Esatto. Allora io e Gianni a doppio ruolo lo sento, Non lo senti? No, negativo. Proprio il ruoletto non ti sente. Marino, mi apri il cancello. Sveglia. Dimmi se è aperto, già ti sento intanto. Chiuso. Avanti, che ho qualcheto. Aperto. Aperto. No, la lattarina invece era aperto. Aperto. Camera. Guarda adesso, è da questa a questa com'è.